perciò i suoi occhi e fa che il cielo non abbocchi. Corri via verso la sua bocca, dove tutti gli altri han fatto cilecca. Corri e scappa verso l'uscita, che se ti trovano non ti salvi mica. Corri via verso ciò che ti manca, tutto il resto è vuoto che avanza. Vittima di tutti i tuoi disastri, non ti aiuterebbero mille paternostri. E inciampi sulla tua sconfitta, ma nemmeno il diavolo ne approfitta. Cos'è che le avresti raccontato se ti avesse riconosciuto innamorato? Corri via verso il tuo meglio, è la cosa più facile che ti consiglio. Corri via, cosa hai da offrire? Fantasia gratuita e morire. Corri via verso il paradiso, da cui sei lontano un solo sorriso. Corri via verso il paradiso, da cui sei lontano un solo sorriso.